Ma la cosa più sorprendente per i crociati doveva essere la sua pulizia. Oggi gli americani sono il popolo più pulito della terra. I crociati si bagnavano sotto la pioggia o quando attraversavano i fiumi. Il bagno era un rito solenne che ogni paggio compiva dopo la veglia notturna davanti all'altare, la mattina prima di essere nominato cavaliere. Ma i musulmani facevano il bagno 5 volte al giorno. Questa fu l'idea di Maometto. Dopo la sua morte, gli amici che gli chiamava compagni raccolsero ogni suo detto che qualcuno avesse scritto o ricordato e ne fecero un libro, il Corano. Il suo punto di vista era sempre tollerante e pratico. Lo assillavano sul rito pagano di voltarsi verso la Mecca durante la preghiera. Più volte disse che non importava da che parte ci si voltasse. Infine disse: «Lasciate perdere, voltatevi verso la Mecca». Ah! Volevano la sua decisione riguardo al gioco d'azzardo e al bere, e disse: «In entrambi i casi c'è un grande peccato e anche alcune cose utili all'uomo, ma il loro peccato è maggiore del loro uso». Alla domanda su quante mogli un uomo dovrebbe avere, rispose che troppe mogli distraggono la mente dell'uomo dai suoi affari, e menzionò i noti problemi di Salomone con le mogli. Se gli si chiede di dire con precisione quante mogli sono troppe, risponde che 4 sono sufficienti, ma sul tema della pulizia era un fanatico. Probabilmente per reagire alla sporcizia degli asceti cristiani, disse con enfasi che un corpo pulito è essenziale per una mente chiara e uno spirito puro. Tutti dovrebbero lavarsi spesso e sempre in acqua corrente. Non ci si può lavare in acqua ferma perché l'acqua si sporca. Egli legò la pulizia al suo piano per mantenere la verità nella mente degli uomini, senza un'organizzazione ecclesiastica. Che ognuno ripeta a se stesso, mattina, mezzogiorno e sera, e a metà mattina e metà pomeriggio, il fatto che non esistono divinità pagane. E prima di dire questo, lavatevi con acqua corrente. Ricordando il commercio, aggiunse che gli uomini che attraversavano i deserti potevano usare la sabbia. Maometto stesso si lavava sempre le mani prima e dopo aver mangiato e si sciacquava la bocca. Così i crociati arrivarono in un paese dove sembrava che tutti facessero sempre il bagno. Le fontane erano ovunque perché i musulmani non vedevano il motivo di andare in chiesa per dire che c'è un solo Dio. Si bagnavano e ripetevano questo fatto ovunque si trovassero, interrompendo il lavoro e gli affari solo per un momento o poco più. Queste innumerevoli fontane fluenti fecero una prima profonda impressione agli europei invasori. Chiunque o qualsiasi gruppo che lo volesse costruiva una fontana, così come chiunque costruiva una moschea. Non c'era più organizzazione in una moschea che in una università. Il cortile di una moschea è tranquillo e piacevole con la sua fontana che zampilla. Vi sedevano mendicanti e filosofi. Alcuni avevano fatto abbastanza soldi, altri li avevano ereditati, altri ancora vivevano di elemosine per dedicare tutto il loro tempo a riflettere sulla natura dell'universo e dell'uomo. 5 volte al giorno uno di loro saliva sul minareto della moschea e gridava che non c'è altro Dio che Dio. Coloro che lo ritenevano opportuno ripetevano il fatto nella moschea dopo aver fatto il bagno alla sua fontana e qualcuno poteva leggere ad alta voce il Corano oppure no. Gli uomini del quartiere mantenevano la moschea riparata se volevano, se non lo facevano cadeva in rovina. Immaginate il crociato che ha conquistato un piccolo regno in Siria, a cena per la prima volta con un emiro vicino, un re che indossa un'armatura di cuoio duro, lana grezza e 80 kg di catene di ferro ed è abituato a rosicchiare la carne fino all'osso e gettarla ai cani e a versarsi in gola un quarto di birra. Le mura di pietra e il cortile lastricato di pietra del castello del suo ospite sarebbero stati come una casa, e le stanze come quelle che aveva saccheggiato non lo avrebbero sorpreso. Avrebbe visto ora come si indossano gli abiti di seta. Ma cosa fece quando un servo gli offrì una ciotola d'argento con un coperchio aperto e una sottile brocca sopra di essa? Sollevò il coperchio e guardò nella ciotola. Questa era vuota. La brocca era piena di acqua calda e profumata di rosa. Prima di mangiare il saraceno si lavava le mani con acqua profumata versata su di esse, l'acqua scompariva attraverso il coperchio in filigrana della ciotola, si puliva le mani su un asciugamano di lino damascato o di spugna, il nostro asciugamano da bagno, e un servitore pose tra il padrone di casa e l'ospite un vassoio di metallo intarsiato e vi pose sopra una ciotola di porcellana con il cibo. Il saraceno mangiava con le dita come gli europei, ma non le puliva sui vestiti, bensì le lavava di nuovo. Il pasto fu servito a portate, piatto dopo piatto, ciotola dopo ciotola. Dopo ogni portata, il saraceno si lavava le mani e le asciugava su un asciugamano fresco. Non c'era un solo cane seduto a desiderare le ossa e a grattarsi le pulci. Il pavimento di piastrelle o di pietra levigate era pulito e splendente. Durante il giorno, il padrone di casa e l'ospite sedevano su tappeti di seta a pelo spesso, riccamente colorati e puliti. Prima di entrare in una casa, un saraceno lasciava fuori le scarpe. Il pasto in sé era sorprendente e strano. Le carni erano preparate in modi sconosciuti, con condimenti e salse. C'erano insalate e sorbetti ghiacciati. C'era una strana bevanda in tazze minuscole, il caffè, con lo zucchero. Nessun europeo aveva mai visto i cereali, le verdure e la frutta che mangiavano i saraceni. Riso, spinaci, asparagi, limoni, meloni e pesche. I primi agricoltori scientifici del mondo li producevano. In Europa, i servi della gleba e i buoi trainavano aratri di legno che graffiavano la terra e il raccolto era quello che Dio voleva. La terra veniva arata 2 volte all'anno e rimaneva sempre incolta perché la terra si stanca e ha bisogno di riposo. Quando Riccardo d'Inghilterra attraversò l'Europa, dovette essere orgoglioso della forte terra inglese. In Inghilterra solo un terzo dei campi giaceva incolto. Ma nel mondo dei saraceni non c'era un solo acro di terra coltivabile. Dall'Atlantico al Katai, attraverso 3 continenti, gli agricoltori saraceni fertilizzavano la terra, arando e contornando, irrigando e ruotando le loro colture, cioè dando la rotazione. Versavano sui mercati un'abbondanza di quasi tutti gli alimenti che la terra produce, ricevendo in cambio una ricchezza di beni che il mondo non aveva mai visto prima. Questi prodotti sono ancora rinomati: lini damascati, tessuti di mohair, mussole, pelli del Marocco, sete siriane, tappeti orientali, mosaici, legni intarsiati, oggetti in vetro e porcellana, smalti, filigrana e intarsi di metalli. L'acciaio di Damasco non è mai stato eguagliato fino a poco tempo fa negli Stati Uniti e non è ancora stato superato in termini di qualità. Nel 1919, alla conferenza di pace, i francesi chiesero e ottennero la Siria e bloccarono la produzione di sete siriane, una manifattura saracena vecchia di 1500 anni che produce ancora oggi sete con le quali i famosi tessitori di Lione non possono competere. Gli americani devono direttamente ai saraceni la nostra architettura sud-occidentale e californiana, la nostra industria del cotone, la nostra pavimentazione in asfalto e una lunga lista di cose come letti, biancheria da tavola e da letto, tavolini occasionali, fragole, gelati. Gli americani parlano arabo quando dicono materasso, divano, cotone, talco, zucchero, caffè, sherbet, sorbetto, nafta, gesso, benzina. Le nostre auto corrono, le nostre strade sono asfaltate, le nostre case sono arredate e i nostri corpi sono vestiti con oggetti creati dai saraceni. I regni cristiani nel mondo dei saraceni durarono meno di un secolo. Gli eredi dei loro fondatori crociati divennero indistinguibili dai musulmani nei costumi, nelle maniere e nell'abbigliamento, come lo erano gli altri cristiani in quella civiltà. Allora, l'emiro musulmano, che era un curdo, propose un'alleanza con l'Inghilterra. Offrì sua sorella in sposa Riccardo Cuor di Leone, che all'epoca era impegnato in una crociata, ma Riccardo intendeva tornare in Inghilterra e ragionevolmente rifiutò di portare a casa una regina musulmana. Poiché il re cristiano non voleva fare la pace, i musulmani attaccarono e presero Gerusalemme. Non la saccheggiarono e non appena i difensori si arresero, rilasciarono i prigionieri. Le condizioni che l'emiro vittorioso impose agli invasori furono che dovevano tornare a casa. Diede loro 40 giorni di tempo per disporre dei loro beni o imballarli prima di partire. Durante i 40 giorni la gente di Gerusalemme si lamentò amaramente con l'emiro perché i cristiani in partenza si stavano impadronendo di tutto ciò su cui potevano mettere le mani. Chiesero all'emiro di fermare questo saccheggio. L'emiro rispose: «Se li fermassi direbbero che sono venuto meno alla mia parola. Diamo loro l'opportunità di lodare la bontà della nostra religione». E lasciò che gli abitanti di Gerusalemme proteggessero le loro proprietà come meglio potevano e gli europei se la cavarono con un bel po' di bottino. Ma i crociati, di ritorno, riportarono in Europa la prima idea di gentiluomo che gli europei avessero mai avuto. Fino a quando non invasero la civiltà dei saraceni, non avevano mai saputo che un uomo forte non deve necessariamente essere brutale. I saraceni erano splendidi combattenti, ma non erano crudeli, non torturavano i prigionieri, non uccidevano i feriti. Nel loro paese non perseguitavano i cristiani, erano uomini coraggiosi, ma erano gentili, erano onorevoli, dicevano la verità, mantenevano la parola data. Questo ideale di gentiluomo colpì in modo particolare gli inglesi. Ancora oggi produce forse la miglior classe di esseri umani sulla terra, gli uomini e le donne della classe dirigente britannica. È un ideale che permea tutta la vita americana. È questo che sorprende tante persone in molte parti del mondo quando vedono e incontrano i comuni soldati e marinai americani. Da queste scarne indicazioni, un americano può farsi un'idea delle persone con cui gli italiani avevano a che fare prima e mentre risvegliavano l'Europa. Ora faccio un breve inserto come Devana e come scuola delle donne, poiché Rose Wilder mette la parola risvegliavano tra virgolette, quindi con intento irrisorio. Io non sono mai stata una fan dell'impero romano, ma ovviamente di fronte a frasi come queste di Rose Wilder sugli italiani non posso non sentirmi infastidita. E se fosse qua davanti a me, Rose, io le ricorderei, o forse la informerei perché magari non lo sapeva, che i romani inventarono le terme nel secondo secolo avanti Cristo e che esse erano per lo più gratuite in modo che anche i poveri potessero accedervi e lavarsi, e che ancora oggi, anche negli hammam turchi, si usano i termini latini frigidarium, tepidarium e calidarium. E dopo questa doverosa precisazione, riprendo la lettura. In quello stesso periodo gli ebrei erano in Europa dalla Spagna. Anche da loro si diffusero idee sovversive, come ad esempio la diceria che la terra è rotonda. Ruggero Baccone, quando poteva uscire di prigione, corrispondeva con studiosi saraceni nelle università spagnole. L'equilibrio del sistema feudale, che era stato così perfetto per tutto il XII secolo, era minacciato dalle domande degli uomini. La Chiesa reprimeva sempre più severamente le nuove eresie. Tutti gli italiani prosperavano grazie al commercio con i saraceni. I mercanti, i commercianti, i capitani di mare e i marinai italiani incontravano costantemente uomini con conoscenze ed esperienze più ampie della loro, uomini più ricchi, meglio vestiti, meglio nutriti, più puliti e meglio curati. Uomini che pensavano e agivano rapidamente e in modo indipendente, avevano metodi migliori per navigare le navi, modi più rapidi per calcolare i costi e sommare i conti, con una rapidità incredibile spedivano i loro affari su grandi distanze. Per gli italiani questa velocità doveva essere la cosa più sorprendente nel mondo dei saraceni. Un europeo che avesse percorso 18 miglia in un giorno aveva fatto qualcosa di cui vantarsi per anni. Un saraceno non pensava minimamente di spedire un pacco a 200 miglia e di riceverne la ricevuta domani. 1000 anni fa, il Pony Express dei saraceni percorreva abitualmente 200 miglia al giorno, ovunque, sulla terraferma, dal Marocco a Bokhara o al Gange. In caso di necessità, poteva percorrere 2000 miglia in 8 giorni. Una tale velocità su una tale distanza non fu eguagliata fino a quando il Pony Express non corse da St. Joseph nel Missouri a San Francisco. Il servizio postale dei saraceni era rapido, segreto, gratuito e universale. Oggi se ne può vedere un residuo a Ragusa, vicino Dubrovnik, sulla costa dalmata. Ragusa è stata una delle città libere sorte in Italia all'alba del Rinascimento. Furono i commercianti italiani a crearle. Le città libere erano gli unici luoghi in Europa a quel tempo dove gli uomini potevano gestire i propri affari. E Ragusa, almeno, era un luogo in cui un uomo poteva credere in qualsiasi cosa credesse senza alcuna interferenza. Mentre l'autorità in Europa continuava a fomentare il fanatismo per il fervore delle crociate, gli europei della Ragusa libera costruivano chiese di pari bellezza e dignità per gli uomini di tutte le fedi, una chiesa cattolica romana, una chiesa greco-cattolica, una moschea e una fontana per i musulmani. Questa è la libertà religiosa. Sotto il porticato della piazza del mercato, sopra la porta che conduceva agli uffici del governo cittadino, si vede oggi un dipinto di Madre Ragusa, la città libera. I colori sono ancora chiari e freschi, raggruppati intorno alle ginocchia di Madre Ragusa e ugualmente racchiusi tra le sue braccia. Ci sono bambini di tutti i popoli, il normanno, il mongolo, l'africano, lo slavo e il levantino. Ecco l'uguaglianza e la fratellanza umana. Sotto il ritratto si trova uno scranno di marmo su cui sedevano ogni giorno tre giudici per ascoltare e giudicare pubblicamente qualsiasi caso portato davanti a loro. Essi rappresentavano la città libera, erano tenuti a giudicare tutti gli uomini con uguale giustizia. Ragusa prosperò enormemente, i suoi mercanti rivaleggiavano e spesso superavano i veneziani. Un terremoto distrusse completamente la città nel XVI secolo, la ricostruirono immediatamente con tutte le sue chiese, con una tale rapidità che non poterono soffermarsi a determinare i confini delle proprietà e quindi si accordarono per costruire il numero giusto di botteghe, tutte di uguali dimensioni, lasciando che gli aggiustamenti venissero fatti in seguito. La prosperità non si interruppe quasi mai. Ragusa era così importante che la Spagna cattolica cercò la città libera come alleata e le navi di Ragusa navigarono con l'armata spagnola contro l'Inghilterra. Nel ricostruire Ragusa, i mercanti migliorarono il servizio postale, costruirono colombaie lungo tutta la sommità delle doppie mura della città, sotto i merli, e migliaia di discendenti dei piccioni postali dei saraceni svolazzarono ancora intorno a loro e svolazzano tutt'oggi. Le città saracene e Ragusa richiedevano a ogni straniero di pagare come tassa d'ingresso alle porte della città due piccioni viaggiatori della sua città. Si possono ancora vedere le gabbie a sbarre, ora aperte, dove i piccioni stranieri venivano schedati con il nome del loro paese. Quando le navi partivano per l'Adriatico o le carovane percorrevano la strada che terminava in Catai, il venditore itinerante portava con sé tanti piccioni ragusani quanti gliene servivano per pagare il biglietto d'ingresso nelle altre città e per portare la corrispondenza alla sede centrale. Con i piccioni inviava i resoconti delle vendite, le notizie di mercato e il suo prossimo indirizzo. A Ragusa un impiegato portava le risposte nei loro cilindri sigillati al maestro dei piccioni che sceglieva il piccione adatto, attaccava e spediva le lettere. Questo servizio postale copriva terra e mare dall'Atlantico all'Oceano Indiano. Per velocità e privacy non fu più eguagliato fino all'invenzione del telefono da parte di Alexander Graham Bell. Le strade postali romane sono famose e in effetti erano eccellenti per il loro scopo, che era militare. Erano utili allo Stato, alla classe privilegiata della Repubblica Romana e più tardi alle famiglie che avevano rapporti con l'imperatore o l'imperatrice. Ma se si cerca un mezzo di trasporto rapido e una comunicazione disponibile per tutti gli uomini comuni, si scopre che sono stati i saraceni a crearle. E che cosa hanno in comune un saraceno vissuto 800 anni fa e l'americano? Condividono una situazione umana comune su questa terra e una natura umana comune, ed entrambi vivono in condizioni che non impediscono loro di usare la loro libertà naturale. La civiltà dei saraceni cessò di esistere. Perché? Ho vissuto per alcuni anni nei resti dell'impero turco e in Siria e in Iraq, ho cercato le tracce che potevo trovare di una risposta a questa domanda. Mi sembra che questo secondo tentativo di stabilire condizioni in cui l'energia umana possa lavorare sotto il suo naturale controllo individuale sia riuscito, come è riuscito per quasi 1000 anni, perché l'anarchia non era così pura tra i saraceni come tra gli israeliti. Tutti questi popoli vivevano già in gruppi di vario tipo quando la maggior parte di loro divenne musulmana. E si crearono una civiltà che abbracciava tutti i costumi sociali, le tradizioni tribali e i modi di associazione umana che erano rimasti da tutte le città e gli imperi che erano esistiti tra il Gange e l'Atlantico. Quindi la loro anarchia era più un'anarchia di gruppi che di individui. Molti individui erano completamente liberi, ma apparentemente la maggior parte di loro preferiva rimanere in gruppi tribali o familiari e accettare molte forme di autorità che non potevano non essere applicate. Ad esempio, le famiglie stipulavano contratti di matrimonio previo consenso degli sposi. I matrimoni musulmani sono ancora esattamente questo, non sono sacramenti religiosi, non sono nemmeno contratti civili e qui, credo, sta la debolezza che alla fine pose fine alla civiltà dei saraceni. Non esisteva una legge civile. Il matrimonio era un accordo tra famiglie, se era necessario far rispettare i termini dell'accordo, che comprendeva la liquidazione dei beni da parte di entrambe le famiglie, la famiglia danneggiata li faceva rispettare. Le uniche garanzie della proprietà sembrano essere state il possesso della proprietà, l'onestà individuale e l'opinione pubblica. Ebbene, le capanne non sono mai state chiuse a chiave nella frontiera americana dove non c'era legge. La vera protezione della vita e della proprietà, sempre e ovunque, è il riconoscimento generale della fratellanza tra uomini. Per quanto tempo un americano è a portata di mano di un poliziotto? Le nostre vite e le nostre proprietà sono protette dal modo in cui quasi tutti sentono la vita e la proprietà di un'altra persona. Ma sembra che i saraceni non avessero alcuna legge civile. C'erano le opinioni registrate di Maometto e quelle di altri saggi che i musulmani accettano come regole di condotta. C'erano gli emiri, i capi dei gruppi, come i capi dei partiti politici in questo paese. C'erano i califfi, parola che significa successore di Maometto. Le Mille e una Notte raccontano come i califfi usavano la loro influenza. C'erano uomini dappertutto dai quali i vicini dipendevano per emettere sentenze come quella di Salomone nel caso delle due donne che reclamavano lo stesso figlio. Conoscevo molto bene un tale Cadi, era un esperto ebanista e si guadagnava da vivere con il suo mestiere. Un occidentale che abbia assistito a un pericoloso litigio in un bazar arabo non lo dimenticherà mai. Una voce, una parola, buca il frastuono delle contrattazioni. Il suono scuote il tumulto fino al silenzio più assoluto. Ne esce un ruggito di folla. Fratelli, siete fratelli musulmani, ricordatevi che siete fratelli. E con quel ruggito si scatena la folla. Uscite da lì, presto. È finita in un attimo. Migliaia di mani separano i litiganti, strappando loro i coltelli dai pugni o dalle fasce. Si alza di nuovo un frastuono imperturbabile di contrattazioni, mentre piccole folle di uomini, che possono lasciare i propri affari, circondano gli uomini arrabbiati e vanno con loro dal cadi più vicino, che se vuole mantenere la sua reputazione di saggezza, deve risolvere la lite in un modo che soddisfi il senso di giustizia di tutti. Si ammira il metodo perché funziona. Ma non è legge. In realtà è il modo in cui gli uomini mantengono sempre e ovunque la pace quando nessuno di loro ha il diritto riconosciuto di usare la forza. Allora ognuno sente la propria responsabilità. Questo è il modo in cui gli americani mantenevano la pace alla frontiera e la mantengono oggi durante le battute di pesca e di caccia nei club. I saraceni hanno evidentemente vissuto molto bene per quasi 1000 anni senza leggi, hanno modificato in molti modi la pura anarchia della libertà, hanno mantenuto le usanze tribali del passato, hanno rafforzato l'autorità naturale dei genitori sui figli e l'influenza naturale di uomini e donne saggi, capaci e di successo. I lavoratori hanno formato gruppi fraterni che esistono ancora, vecchi di più di 1000 anni. La confraternita dei barcaioli si stringe intorno a ogni nave che getta l'ancora nel Bosforo e non porta a terra passeggeri o merci finché il capo dei barcaioli e il capitano della nave non hanno concordato le condizioni adatte alle circostanze di quel giorno e di quella nave. Tutti questi sono metodi per utilizzare l'energia libera in modo flessibile in un'azione reciproca. Sono modi per controllare le energie umane combinate senza limitare la libertà individuale. Quanti di questi metodi esistevano nei grandi giorni di quella civiltà perduta? Quali fossero esattamente e come funzionassero o non funzionassero, chi lo sa? L'argomento non interessa agli europei e io non so leggere l'arabo. Devono esserci stati molti metodi per controllare di comune accordo tutte le attività di quella civiltà operosa che abbracciava tre continenti con il commercio, scoprendo e incrementando e applicando le conoscenze scientifiche, creando e distribuendo una ricchezza senza precedenti di beni e di conoscenze, letteratura, arte, architettura, migliorando costantemente tutte le condizioni di vita. Non c'era un'autorità, non c'era lo Stato, non c'era la Chiesa. Gli uomini spendevano enormi somme di denaro per costruire strade, osservatori, università, ospedali, moschee, fontane e giardini pubblici. Gli studiosi raccoglievano e scambiavano manoscritti e libri, gli architetti creavano gli edifici più belli del mondo, i commercianti gestivano affari che si estendevano per migliaia di chilometri. Come facevano? Quali metodi hanno sviluppato in 800 anni di esperienza? Tutti quei complessi di energie libere che operavano su tre continenti e tre mari, coinvolgendo milioni di persone in rapporti di interdipendenza, erano orientati alla velocità, la velocità del Pony Express e del volo del piccione. Il Pony Express era un servizio postale a cavallo organizzato a staffetta, dove cavallo e cavaliere erano molto piccoli e leggeri e percorrevano soltanto un dato numero di chilometri al giorno fino al punto in cui c'era in attesa il ricambio di cavallo e cavaliere. Quando la guerra lampo dei turchi colpì, fece a pezzi quel mondo. I Pony Express cessarono di circolare, i piccioni svolazzarono sulle città saccheggiate. Non rimaneva nulla a tenere insieme i milioni di persone viventi che avevano creato quella vasta, delicata e intricata civiltà. Non tutti erano musulmani, ma tutte le razze, i colori e le nazioni musulmane si mescolavano senza alcuna distinzione tra loro se non le loro qualità individuali di uomini e donne. L'unica cosa che i musulmani hanno sempre avuto in comune è la loro convinzione, il loro dire quotidiano, che c'è un solo Dio. Nessuna organizzazione religiosa, politica o sociale si estendeva su tutta la civiltà tricontinentale e non c'era nulla che potesse sostituirle, non c'era la legge. Penso che ci sia una necessità naturale di una legge civile, un codice esplicitamente dichiarato, scritto e conosciuto, una cosa impersonale, esistente al di fuori di tutti gli uomini come punto di riferimento a cui ogni essere umano possa fare appunto riferimento e appellarsi. Non una forma di controllo, perché ogni individuo controlla se stesso, ma una legge che agisca come un terzo non umano nelle relazioni tra persone viventi. Un testimone impersonale dei contratti, un registratore delle promesse e degli atti della proprietà e dei trasferimenti di proprietà. Uno standard non vivente, esistente in forma visibile, in base al quale gli atti degli uomini possano essere giudicati e al quale le menti degli uomini possano aggrapparsi. Nel XV secolo i selvaggi turchi ottomani capirono per la prima volta che gli uomini sono liberi e divennero un ciclone di energia che colpì il mondo dei saraceni. In quel mondo, 15 generazioni erano vissute e morte da quando la libertà era stata una scoperta elettrizzante. Si può essere certi che gli uomini pratici davano per scontata la loro libertà d'azione e non ci pensavano mai. Improvvisamente l'uomo medio si trovò impotente, al verde, incapace di affrontare un mondo che non funzionava più. Un uomo d'affari non era un filosofo, sapeva di non essere responsabile di questo crollo, eppure un uomo pratico sa che gli effetti derivano dalle cause, qualcosa deve essere responsabile. Tra il XV e il XVII secolo, i musulmani dimenticarono il Dio di Abramo, Cristo e Maometto, arrivarono a pensare a Dio come a un'autorità che controlla gli uomini. Credo che non trovassero altra spiegazione per la rovina del loro mondo. Dissero che era un atto di Dio, era completamente irragionevole, quindi dissero che Dio è inconoscibile. E questa convinzione prevalente tra i milioni di persone influenzò i turchi appena convertiti, così che anch'essi tornarono al paganesimo. Il mondo saraceno e i turchi che lo avevano conquistato sprofondarono nella stagnazione. La Turchia era il malato d'Europa. Dal 1820 al 1924 gli uomini che governavano le cinque potenze d'Europa si riunirono con sollecitudine intorno a quel letto malato per tagliare pezzi del paziente, per amputare. L'energia umana in Turchia era così debole che il popolo non avrebbe agito né a favore né contro il sultano. Nei palazzi di marmo bianco lungo il Bosforo non potevano esserci che intrighi di palazzo. Ricordo un giovane turco nel 1923, re giovane, ammirava appassionatamente tutto ciò che era occidentale, era entusiasta perché le donne turche ora lavoravano nelle fabbriche come le donne occidentali. I cappelli erano di fondamentale importanza per lui e chiese un editto che vietasse alle donne turche di indossare il velo. Mustafa Kemal emanò quell'editto più tardi. Le donne turche si sentirono come si sarebbero sentite le donne americane se un dittatore nudista avesse ordinato alla polizia di non permettere a nessuna donna di indossare alcun vestito in pubblico. Quell'editto fu chiamato Liberazione delle donne turche e chiuse una generazione di donne nelle loro case per il resto della loro vita. Questo giovane turco mi assicurò che la Turchia si era finalmente svegliata, che Mustafa Kemal era un grande liberatore, che avrebbe tenuto gli invasori europei fuori dalla Turchia e costretto i turchi a comportarsi come gli europei. Disse: «Sia lodato Dio, finalmente noi turchi ci ribelliamo alla divinità come voi americani». Ero scioccata. Era stupito che non conoscesse il mio paese. Mi spiegò come a un bambino deficiente, sicuramente sai che Dio ha fatto il mondo, Dio ha fatto le montagne e i fiumi, voi americani rifiutate di accettare la volontà di Dio, abbattete le montagne, fate scorrere i fiumi a vostro piacimento. Ah, ma è magnifico, la volontà dell'uomo contro quella di Dio, e ci riuscite, ci riuscite. Lode a Dio, anche noi turchi ci ribelliamo a lui. I musulmani erano tornati all'universo statico e immutabile, all'autorità di controllo. Erano sfuggiti alla responsabilità della libertà. La vita musulmana è rimasta stagnante per 6 secoli perché i musulmani non sapevano più che gli individui si controllano da soli e sono responsabili dei propri atti, della propria vita e del mondo che creano. Dal sultano allo schiavo, ogni buon musulmano ha vissuto in sottomissione all'inconoscibile, come gli spartani. Si sottomettevano alla legge di Licurgo, come i selvaggi si sottomettono al tabù, come i comunisti, i fascisti, i nazisti si sottomettono al partito e come alcuni americani credono che gli individui debbano sottomettersi a un bene sociale imposto alla volontà della maggioranza, a un'economia pianificata, a molti altri dei pagani che non esistono.